ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. In qualche maniera non credo di essermi più seduto da allora. Poi errori ne sono fatti tanti, anche da adulto, però sempre con la consapevolezza che fosse mia la responsabilità. Ricordi di portare il permesso firmato dai genitori insieme al documento d'identità? Certo, ho preso il tesserino della pallamano. Storie di una partita decisiva e di un passato che continua ad affiorare in una puntata che si intitola Una questione di identità. Dimmi ogni minimo dettaglio. Una strana cosa. Come si fa a sparare al diavolo? Quel tizio è protetto molto in alto dal principe delle terre. E allora che dici, venditore ambulante? Qual è la tua storia? C'era un avvocato. Quale avvocato, Verba? Io sono l'avvocato Kobayashi. Kobayashi. Dimmi ogni minimo. Io lavoro per casa sua. Convinci. Iniziamo oggi una nuova settimana di Linee d'Ombra, la seconda settimana di Linee d'Ombra, e la cominciamo così con questo pezzo famosissimo dei Soliti Sospetti, che non racconterò perché vorrei evitare lo spoiler, però è la quintessenza della ricerca di un'identità, quando la voce di Verbal, il protagonista, nonché appunto il padrone della voce, il personaggio padrone della voce che avete appena sentito, rievoca tutto quanto quello che ha raccontato, e il poliziotto che l'ho ascoltato rimette insieme tutti i pezzi. È sì la quintessenza della ricerca di identità o della costruzione di un'identità, è anche però la quintessenza del racconto di una storia, perché la grande capacità di chi riesce a inventarsi una storia è quella di mettere insieme elementi della sua vita vissuta, oppure piccoli pezzi di cose che ha sentito in giro, cose che ha visto, suggestioni, immagini, altri racconti, conti, altri suoni. Non è quello che facciamo qui a Linea d'Ombra. Qui a Linea d'Ombra non costruiamo storie, qui a Linea d'Ombra le raccontiamo. Prendiamo delle storie vere, realmente accadute, alle persone che ascoltano questo programma e che hanno voglia di condividerle con noi a lineadombra@radio24.it, e le raccontiamo. Storie che hanno in mezzo un confine, storie che hanno in mezzo una linea che è stata valicata. Prendiamo un paio di pagine e il gioco è fatto, la puntata è creata. È proprio il caso anche di oggi, una puntata che si intitola Una questione di identità. Abbiamo una storia che parla di un piccolo rito di passaggio che ha a che fare con la presa di coscienza di chi è il protagonista, legato ad un'esperienza nel mondo del basket, e poi invece abbiamo una storia che va veramente a pescare nel pozzo profondissimo dell'identità di ognuno di noi, e lo fa per una persona, per la storia di una persona che è stata segnata da eventi epocali, eventi storici che riguardano l'Argentina degli anni dei desaparecidos e dell'uccisione degli avversari politici da parte del regime argentino, e insomma di quello che è accaduto a questa ragazza quando era in realtà una neonata. È una storia incredibile che vi lascio gustare tra pochissimo. Vi ricordo che se per caso avete anche voglia di condividere, oltre che per iscritto, una storia di confine che state vivendo adesso in questo momento, per cui la scrittura magari ha bisogno di un po' di tempo per elaborarlo, e invece preferite, visto che la state vivendo, un passaggio, un trasloco, un cambiamento importante ora in questo primi di settembre del 2020, potete anche mandarcelo attraverso un audio, un paio di minuti di audio con un WhatsApp al 331 57 55 721, 331 57 55 721. Ciao, mi chiamo così e la linea d'ombra che sto attraversando ha a che fare con una casa che ho mollato, eccetera, oppure con una persona che ho incontrato, oppure con un nuovo lavoro che sto affrontando, e noi la prendiamo, la diamo al nostro Paolino Corleone, al nostro Luca Micheli, e ci facciamo un nuovo modo di raccontare una storia. Ora però basta con le introduzioni, basta con le presentazioni, lasciamo la parola alle storie. Benvenuti a Linee d'Ombra. Correva l'anno 1975, nemmeno 17 anni e penultimo anno del liceo classico. Mi innamoravo molto, ma ancora non avevo scoperto le ragazze e lo sport era assolutamente prioritario nella mia vita. Giocavo nelle giovanili di basket e quell'anno il mio cartellino era stato acquistato dalla Lazio, sponsorizzata dalla Pinti Inox. Passai l'intero anno a far su e giù 3-4 volte a settimana, 2 ore di autobus e metro per raggiungere il campo del San Gabriele, 1 ora e mezza di allenamento e 2 ore per il rientro. Eravamo i favoriti, pur essendo ancora cadetti, 2 dei nostri pivot superavano i 2 metri e qualche elemento, tra cui il mio amico Mario, era sicuramente una promessa del basket laziale, che sarebbe esploso qualche anno più tardi. Io non ero tra questi. Mi avevano reimpostato per un ruolo che non avevo mai avuto, ma che era più adatto alla mia altezza e al mio fisico esile. Infatti, col Palocco Basket avevo sempre giocato da pivot incontrando avversari da 20 kg e 10 cm più alti di me. Ma nonostante riuscissi a saltare più in alto, soffrivo molto i contrasti sotto canestro. La Lazio era un altro mondo rispetto alla polisportiva di Casal Palocco. Organizzata con criteri aziendali, aveva una squadra in A2 allenata dal mitico Paratore e grandi ambizioni, per cui puntava molto sul vivaio e i suoi 2 allenatori ci allenavano professionalmente. Decisero quindi che non avrei avuto alcun futuro da pivot col mio 1,88 m e mi reimpostarono da ala alta. Allora non si doveva essere dei cecchini per ricoprire il ruolo e bastarono la mia grinta e i miei rimbalzi per fare di me un discreto panchinaro. Peraltro, sul finire della stagione, tra lo stupore dei miei allenatori e l'ammirazione dei miei compagni di squadra, fui il primo ad iniziare a schiacciare a canestro e feci altri notevoli progressi, per cui nelle ultime partite fui impiegato molto più a lungo. La squadra era predestinata al titolo nazionale. A noi avevano dato anche le magliette double face negate agli juniores. Avevamo fatto un campus di preatletica con 2 allenamenti al giorno. Avevamo una panchina lunga. Facevamo sedute differenziate per ruoli. Alcuni genitori accompagnavano i miei compagni a tutti gli allenamenti, immaginandoli già dei campioni. La cosa bella di quegli anni è che il basket romano crebbe molto tutto insieme, per cui noi ci ritrovammo che avevamo fatto i pulcini, i cadetti, gli juniores insieme eccetera, e poi si arrivò allo scudetto del basket Roma nell'82, insomma eravamo nati veramente insieme. Ho ritrovato appunto ragazzi con cui ci eravamo affrontati tante volte nei campionati minori. Vincemmo in effetti tutte le partite del nostro girone, primi in tutta Roma davanti a squadre blasonati come Basket Roma, Stelle Marine e Fortitudo, e ormai dai playoff per il titolo nazionale ci separavano 2 partite secche in campo neutro. L'unica nota stonata era che non sentivo mia nessuna partita. L'ambiente era troppo competitivo, duro, serioso, molto diverso dall'ambiente scanzonato e amichevole in cui ero cresciuto, in cui la scarsità tecnica era compensata da un gruppo di amici molto affiatati che sviluppava un ottimo gioco di squadra. Comunque, avevamo centrato il primo obiettivo e l'allenatore ci avvertì che avremmo dovuto portare un documento di identità perché nelle partite decisive non era possibile il riconoscimento sub iudice. Che sarà mai un documento d'identità? Una cosa da grandi, probabilmente inutile se fino ad allora si era fatto diversamente. Avrei dovuto scomodare i miei e non ero abituato a farlo, avrei dovuto chiedere in giro a qualcuno come si faceva, ma era fastidioso. Poi a 16 anni il tempo passa che nemmeno te ne accorgi e le regole degli adulti non sembrano tanto pratiche. Insomma, non si vedeva che ero un cadetto, senza ancora un filo di barba e col volto da ragazzino. Impossibile che le regole fossero così ottuse, dai. Premetto che l'anno prima giocavo anche a pallamano e con il Palocco Handball avevamo anche vinto il campionato giovanile e l'accesso alla Serie B, per cui ero stato comunque ritesserato nel caso fosse stato assolutamente necessario impiegarmi. Tutto a un tratto ebbi l'idea geniale. Avrei utilizzato il tesserino della pallamano per confermare la mia identità e la mia età. Problema risolto. Poi ci avrebbero pensato gli adulti a far combaciare bene le cose. I fought the law and the law. Arrivò il giorno della trasferta. Saremmo partiti la mattina dopo, presto, col pullman, e l'allenatore ci chiamò per conferma. Tutto bene? Ti senti in forma? Sì, sì, certo. Ricordi di portare il permesso firmato dai tuoi genitori? Sì, già messo nel borsone. Perfetto, insieme al documento d'identità? Sì, ho preso il tesserino della pallamano in cui c'è la fotografia e la data di nascita. Il tesserino di cosa? Mi chiese. Non serve a nulla il tesserino. Passami tuo padre o tua madre. Lo sguardo fisso sul volto di mia madre, che alla cornetta ascoltava in silenzio dopo aver detto che non ne sapeva nulla. Non un sorriso, non una moina, una voce un po' più gentile, un'inclinazione del capo per accattivarsi il mio allenatore. Ascoltava in silenzio e non cercava nemmeno di tranquillizzarmi o di consolarmi con lo sguardo. Chiese solo a che ora sarebbe partito il pullman. Ripeté l'orario, mattina presto, e mi guardò senza espressione. Scarabocchiò qualcosa e poi chiuse la conversazione senza nemmeno ripassarmi l'allenatore. Ma non mi rimproverò, né mi fece prediche, ed era già qualcosa. Partono troppo presto domattina, mi disse. L'anagrafe di Acilia apre mezz'ora dopo e prima di ottenere il documento sono già arrivati. Domani mattina vai a farlo, comunque. Provi a raggiungere in tempo utile per la seconda partita. Questo è il nome dell'hotel dove alloggeranno. E mi diede il biglietto. Insomma, vedevo uno spiraglio. Forse non tutto era perduto. Mi sono ritrovato di fronte a questa cosa enorme, veramente su cui avevo puntato un anno della mia vita, peraltro, insomma, i traguardi, le attese di tutto l'entourage, i traguardi ovviamente di un ragazzino, insomma, c'erano tutta una serie di cose, il rimprovero naturalmente, quindi ci sono tante cose dentro. La mattina dopo arrivai in anticipo all'anagrafe e mi rilasciarono la mia prima carta d'identità in brevissimo tempo. Tornato a casa, andai all'agenzia di viaggio del mio amico Pippo e mi informai degli orari dei treni e del prezzo. La sera chiamai l'allenatore in hotel e lui, invece di chiedermi subito se ce l'avevo fatta a fare il documento, mi disse che avevano vinto la prima partita e iniziò a raccontarmela, o almeno credo, perché fin da subito smisi di ascoltarlo e mi sentii indietreggiare come quando sali sulle scale mobili al contrario. Quando dissi che avrei potuto raggiungerli la mattina dopo, l'allenatore mi disse che ormai la rosa era stata convocata, anche se la mia presenza sarebbe stata certo utile per il tifo sugli spalti. Terminai la telefonata disperato, di quella disperazione giovanile che non ti fa intravedere altra soluzione, che ti fa pensare di non poterti mai più risollevare, una caduta libera in un buco nero infinito. E la cosa più terribile di tutte era che non potevo prendermela con nessuno. Contro ogni pronostico, la mia squadra perse la partita decisiva, per un punto. Io facevo più di un punto a partita e rimarrò convinto per tutta la vita che la mia superficialità sia stata decisiva. Quell'anno mi diedero 4 materie a settembre, logica conseguenza del tempo e delle energie sottratte allo studio dall'impegno sportivo. Riuscii a sfangarla nonostante le previsioni di mio padre. La sua sorpresa fu la medaglia più bella. Nello stupore degli insegnanti e con la mia stessa incredulità. L'anno successivo la Lazio si fuse con altre 2 squadre e fui convocato in Serie C, ma declinai l'offerta. Avevo deciso che non era così importante diventare un campione di basket, per cui tornai nella mia squadretta di quartiere, tra amici, dove ogni partita era sudata ma sentita, e dove, grazie al nostro affiatamento, in 5 anni salimmo dal campionato di promozione alla Serie C1. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we def. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Yeah. La puntata di oggi si intitola Una questione di identità. Insomma, l'avete capito, grosso modo, il motivo. Roberto fa un, diciamo, per una leggerezza legata a un documento di identità che lui crede andare bene rispetto a un altro, evidentemente, insomma, non è così. Perde un'occasione, però poi in realtà la sua vita prende una piega della quale lui comunque è tuttora molto soddisfatto. Pronto, ciao Roberto, buongiorno. Buongiorno Matteo, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Come stai, tutto bene? Bene, bene, tutto quanto bene, grazie. Senti, tutta questa storia accade a Roma, a Casal Palocco, giusto? Beh, diciamo, io vivevo in quel periodo, sì, in questo quartiere fuori mano di Roma, che è un quartiere considerato allora un quartiere dormitorio, in cui comunque si è creata una comunità abbastanza pionieristica in quegli anni, che è tuttora molto solida, devo dire. Sì. Cosa fai adesso nella vita? Ti abbiamo lasciato giovane giocatore di basket, cosa è accaduto nella tua vita nel frattempo? Sono un biologo della pesca. Cosa vuol dire, perdonami, biologo della pesca? I biologi della pesca diciamo si occupano della sostenibilità ecologica ma anche socio-economica delle attività di cattura e di allevamento in acqua, quindi acquacoltura, pesca in tutte le maniere. Ovviamente si declina attraverso l'assistenza tecnica, la formazione, la cooperazione allo sviluppo anche all'estero. Ti chiederei altre cose sulla biologia della pesca, però magari un'altra volta. Andiamo alla storia. Invece, che tipo di giocatore di basket eri da ragazzo, Roberto? Beh, io ero grintoso, sicuramente. Non avevo una grandissima visione di gioco. Questo, diciamo, non avrei mai potuto fare il playmaker. Ci voleva un'intelligenza che io non avevo. Puntavo molto sulle mie caratteristiche fisiche, diciamo, insomma, ero molto magro, saltavo tanto, ero molto agile e avevo degli spunti sicuramente, diciamo, tra virgolette originali, che permettevano poi di fare un pochino la differenza. E difendevo bene, saltavo tanto, insomma, più o meno. Eri uno che compensava la mancanza di talento, da come tu dici, con un grande impegno. Diciamo che quello che risulta anche un pochino, che volevo anche sottolineare nel racconto, è che questo spirito di amicizia, di sfida, di competizione, eccetera, che c'era in questo quartiere e in tutte le squadre che si formavano in quel periodo, poi nei vari quartieri di Roma, naturalmente altrove, compensava, perché col gioco, con la voglia, con l'abitudine, con la formazione, compensava anche altre deficienze, naturalmente. Certo. Non avevo le impostazioni, certamente, che si davano nelle grandi squadre con le giovanili, certo, molto inquadrate, certo, chiarissimo. Fondamentali molto forti. Senti, però Roberto, io non ho capito il motivo per cui tu non hai voluto scomodare nessuno per questa benedetta carta d'identità. Cioè, l'hai presa sotto gamba o non avevi voglia di dare noia a casa? Non avevo voglia di dare noia, nel senso che poi c'era l'abitudine in casa un pochino a cavartela da soli. I campi erano sempre aperti, perlomeno in questo così come lo erano più o meno gli oratori, quindi diciamo non c'era l'abitudine di caricare il peso di queste cose. Sì, chiarissimo, insomma, cercava di sbrigarsi da soli. Senti, invece Roberto, volevo chiederti, provi ancora un po' di rimorso per la sconfitta della tua squadra senza di te in campo? Cioè, ogni tanto ci ripensi a quella cosa? Ci ho ripensato, ovviamente questa è la prima volta che lo confesso in pubblico, non sono rimasto in contatto con quasi nessuno praticamente, se non questo Mario che ho rincontrato a distanza di tanto tempo. Loro non sanno questa cosa qui, insomma, il perché. Naturalmente questa è una mia impressione, è un film che mi sono fatto io, è una verità che mi sono costruito io nel tempo. Certo, come sempre succede quando passano molti anni, esatto, dagli avvenimenti che in qualche modo ci hanno lasciato qualcosa, poi la ricostruiamo, li elaboriamo, cerchiamo di vederci magari delle cose che o ci sono solo per noi o delle volte non ci sono proprio. Senti Roberto, io però ti ringrazio moltissimo per la storia, per la chiacchierata, e ti faccio in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, grazie, complimenti. A presto. A voi per il programma. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie davvero. So it never really mattered. It never really mattered. So it never really happened. What's the the point in fighting for a happy ever after? The past keeps haunting the future I imagine. All I ever wanted was a little peace and quiet. Just color in the lines and you'll get it like they promise. If you bite the hand, get louder and defiant. Then you'll see how quickly they come making a deposit. Si intitola Una questione di identità, avete capito, certo è legato al documento d'identità che non viene presentato da Roberto, ma in realtà parla molto di altro questa storia che ci ha raccontato, parla di come ci si sente quando si è ragazzini e soprattutto si cerca una propria via per se stessi. Grazie Roberto per la chiacchierata, ora ascoltiamo Le borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. La puntata di oggi si intitola Una questione di identità e dopo una storia in cui insomma il tema dell'identità è affrontato attraverso un documento, la prossima storia invece va proprio molto nel profondo rispetto al tema del chi siamo e del come ci poniamo rispetto al mondo in base a chi siamo. E spesso chi siamo arriva dalle persone che ci hanno generato e quindi dal sangue che ci scorre nelle vene, ma anche dal retaggio che ci arriva dai nostri genitori, in sostanza. Ecco perché questa storia è una storia che, vi dicevo, pesca davvero nel cuore del tema dell'identità. La protagonista è una donna. È una donna che, come racconta lei stessa, un tempo avrebbe disprezzato le persone come lei, la lei che era diventata adesso, cioè gli attivisti per i diritti umani, oppure i politici di sinistra, o peggio ancora i figli dei desaparecidos. Per lei quelli erano tutti sovversivi. Le avevano insegnato così, i genitori. Io non ero io, dice la donna oggi. Lei era Maria Sol Tetzlaff, era la figlia di un ufficiale dell'esercito. Adesso invece è un'altra persona, è Victoria Montenegro, è figlia di attivisti uccisi durante la dittatura e simbolo di crimini gravissimi. Victoria Montenegro ha 37 anni, ha i capelli lunghi e neri, ha gli occhi castani e soprattutto ha due vite completamente diverse. La prima è quella trascorsa nella casa di Herman Tetzlaff, il capitano dell'esercito che sterminò, su ordine dei generali argentini, chiunque la pensasse in modo diverso dal regime. L'altra invece è il suo presente di attivista e figlia di Hilda Torres e Rockero Montenegro, due guerriglieri assassinati. In questa puntata, che appunto si intitola Una questione di identità, la seconda storia di oggi è proprio la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Prima di cominciare a raccontare la sua storia, facciamo un esercizio di immaginazione, cioè provate ad immaginare di scoprire, ormai da adulti, di essere un'altra persona. Un esame del sangue trasforma il sospetto in certezza, nonostante tutte le vostre resistenze. Di colpo i vostri genitori non sono più i vostri genitori, il vostro nome non è più il vostro nome. All'improvviso la vita vissuta fino a quel momento diventa un inganno, un'esistenza sottratta da criminali. All'improvviso diventate quello che avete sempre odiato e scoprite che la persona che vi ha cresciuti è l'assassino dei vostri genitori. È quello che ho vissuto per 24 anni, racconta oggi Victoria. 24 anni di menzogne, giorno dopo giorno. Non ho più niente a che fare con quel che ero in passato, dice. Victoria è stata cresciuta dall'uomo che aveva torturato e ucciso i suoi genitori durante la dittatura dei generali argentini. Pochi anni fa ha recuperato la sua vera identità, ma continua a fare i conti con il passato. Hilda Torres e Roque Montenegro, i suoi genitori naturali, arrivarono a Buenos Aires da Salta, nel nord-ovest dell'Argentina, a metà degli anni 70. Erano sognatori radicali, impegnati in una lotta senza speranza. Si battevano per la giustizia sociale, per rovesciare il sistema, per una Cuba sudamericana. In passato avevano fatto parte della gioventù peronista e sostenuto l'ex caudillo Juan Domingo Perón e la sua Evita. Poi si erano uniti alla guerriglia, all'esercito popolare. Quando venne alla luce la loro figlia, il 31 gennaio del 76, Hilda aveva 18 anni e Roque 20. La chiamarono Victoria, ma la rivoluzione era già vicina alla disfatta. I Montenegro furono rapiti dall'esercito nella periferia di Buenos Aires. Tra i militari c'era anche Herman Tetzlaff. Victoria aveva 13 giorni. I suoi genitori furono portati nella base militare di Campo de Mayo e dopo un po' i loro cadaveri finirono nelle acque scure del Rio della Plata. La piccola Victoria fu trasferita nel commissariato del sobborgo di San Martín e dopo 3 mesi fu assegnata ai coniugi Herman Tetzlaff e Maria del Carmen Duartes. Fu creato un falso certificato dove i nuovi genitori cambiarono luogo e la data di nascita, 28 maggio 1976, e chiamarono la bambina Maria Sol. Sol come il sole che campeggia sulla bandiera dell'Argentina. Victoria è venuta a conoscenza dei particolari solo a un quarto di secolo di distanza, dopo un'infanzia trascorsa in un'atmosfera marziale, cattolica e molto severa. L'ufficiale Tetzlaff faceva parte di una delle unità delle forze armate che sequestravano, interrogavano, torturavano e massacravano. La prigione in cui lavorava si chiamava El Vesuvio. Quando rincasava dopo il lavoro, l'uomo si vantava con la famiglia, stava liberando l'Argentina dai terroristi, stava salvando la famiglia e la patria. Torturava e uccideva, e poi la sera cenava con noi. La domenica andavamo insieme a messa, dice oggi Victoria Montenegro. Non potrò mai capire tanta spietatezza. A partir de ahora depende legalmente del Poder Ejecutivo Nacional. Por ese motivo los estamos trasladando a diferentes unidades penitenciarias de la Nación. Rápido, oportunamente informaremos a sus familiares. ¿Cuándo? Ya le vamos a informar. Por ahora no podemos informarles nada por seguridad. Da piccola, Maria Sol Tetzlaff adorava quello che pensava fosse suo padre. Ero innamorata di lui, dice. Lo considerava un vincitore e un buono in quella guerra. Gli altri erano i perdenti, i cattivi. Tetzlaff era alto circa 2 metri e aveva i capelli biondi e gli occhi azzurri. Era figlio di un immigrato tedesco arrivato subito dopo la guerra. Mio nonno era un nazista, dovette fuggire, dice Victoria Montenegro. Tetzlaff guidava una grossa auto bianca e aveva delle armi nel portabagagli, per difendersi dai sovversivi, spiegava. Anche queste cose colpivano la piccola Maria Sol, ma mentre cresceva cominciò ad avere i primi dubbi. La ragazza era molto diversa dal papà e dalla mamma fisicamente. Le domande sull'immagine che vedeva riflessa allo specchio erano liquidate con delle bugie. Maria Sol somigliava a un bisnonno o a uno zio di cui non esistevano foto, le dicevano. Poi, nel 1983, è tornata la democrazia. I comandanti della giunta sono stati processati e assolti subito dopo. Truth is that I haven't shook my shadow, and every day is trying to trick me into doing battle. Calling out fake love, wanna get me rattled, wanna pull me back behind the fence with the cat. Building your lenses, digging your trenches, put me on the front line, leave me with a dumb mind. With no defenses, but your defenses. If you can't stand to feel the pain, then you are senseless. Since then, I've grown up some different kind of fighter. And when the darkness comes, let it inside you. Your darkness is shining, my darkness is shining. Seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you're choosing before you gon' die? And I'll tell you about a secret I've been undermining. Every little lie in this world come from divine. Say you're my love, say you're my home. Till my chin back, slit my throat. Take a bath in my blood, get to know me. All out of my secrets. All my enemies are turning into my teachers. Speak up, light's blinding, no way dividing. What's yours or mine when everything's shining? And your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in ourselves. Una sera i coniugi Tetzlaff videro in TV un'intervista a Estella de Carlotto, la presidente delle Abuelas di Plaza de Mayo. Estella raccontava che sua figlia Laura era stata rapita e uccisa quando aveva 23 anni e che ora stava cercando suo nipote, Guido. «Povera donna», commentò Maria Sol, ormai adolescente. «Non preoccuparti, il nipote è con un mio conoscente», rispose con tono di scherno Herman Tetzlaff. Le Abuelas hanno raccolto indizi e hanno creato una banca del sangue con campioni dei loro familiari. Nel 1997 una delle tracce ha condotto alla figlia scomparsa dei desaparecidos Hilda Torres e Roque Montenegro. Alla fine degli anni 90, Maria Soltezlav si è messa in contatto con Esteia De Carlotto, diventata nel frattempo l'attivista per la difesa dei diritti umani più famosa d'Argentina. Un tribunale l'aveva contattata e costretta ad un confronto genetico con i parenti dei coniugi Montenegro. Il risultato è stato inequivocabile. All'appuntamento con Estela De Carlotto, Victoria all'inizio non voleva sapere niente delle madri di Plaza de Mayo e della loro missione. Per lei erano un pericolo. Ma il 5 giugno del 2000, una goccia del suo sangue e il collegamento con le famiglie Montenegro e Torres le hanno restituito la sua identità trafugata. È stato come rinascere, racconta oggi, ma non è stato facile. Lei non desiderava quel nuovo vecchio io. Si ribellava alla certezza di non essere figlia del soldato Hermann Antonio Tetzlaff, che adorava, ma di un ribelle, morto e sconosciuto. Quando Victoria ha visto per la prima volta una foto di suo padre, è rimasta sconcertata. Gli somigliavo moltissimo, racconta. Per lei, la colpa del suo destino dilaniato era di tutti, dei Montenegro, delle nonne, della sinistra, della storia, ma non dell'uomo che l'aveva rapita e le aveva mentito. Durante le indagini, il militare le fece una confessione. Lui non era suo padre, questo era vero, e all'epoca era stato lui a sparare ai suoi genitori, in combattimento e per amor suo. Perfino in quel momento lei gli credeva ancora. Però anche quella confessione era una menzogna. In realtà i genitori di Victoria erano stati torturati per settimane e lanciati nel Rio de la Plata dagli aerei dell'aeronautica militare. Tetzlaff è morto a causa del diabete nel 2003 in un carcere militare. Victoria Montenegro è andata a trovarlo fino all'ultimo e continuava a chiamarlo papà. Ora, quando parla di lui, lo chiama Hermann, oppure mi apropiador, un'espressione che si può tradurre con la persona che mi ha sottratta la mia famiglia. La moglie di Tetzlaff invece è morta nel 2007. Né lei né il marito hanno mai provato un briciolo di rimorso. Victoria Montenegro incrocia le braccia e dice: però non ho mai smesso di volergli bene. Lentamente la donna si è sbarazzata di Maria Soltezlav come di un guscio vuoto e si è infilata nella persona di Victoria Montenegro. La svolta decisiva è arrivata nel 2011 con il processo contro il defunto dittatore Jorge Videla e i suoi complici. Durante il governo Fernandez sono stati riaperti i casi sull'assassinio sistematico degli esponenti dell'opposizione e del rapimento dei loro figli. Per me è stato come un esorcismo, racconta Victoria. La paura è svanita insieme a Maria Sol, ha raccontato una volta. Oggi, a volte vado a trovare la sorella di un tempo, che vive ancora nella casa dei Tetzlaff, dice. Altre volte mi metto in viaggio per Salta, per visitare la tomba dove ho seppellito le ossa del mio vero padre. E altre ancora, vado al cimitero di Chacarita, a Buenos Aires, dove è sepolto Hermann Tetzlaff. A volte gli porto anche un fiore. Non so se faccio bene o male. È strano, ma è così. Non c'è una logica. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia il modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Questa storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo letta su Internazionale, tradotta da un articolo del Süddeutsche Zeitung, quindi abbiamo deciso di raccontarvela proprio perché in questa puntata in cui si parla di identità, una storia come questa fa davvero due o tre salti mortali, considerato quello che è successo a Victoria e come chi siamo è dettato sì dalla nostra esperienza di vita, cioè dalla parte culturale, ma inevitabilmente è dettato anche moltissimo dal nostro sangue, dalla nostra parte genetica. Se poi in mezzo c'è un omicidio, come in questo caso, beh, insomma, possiamo immaginare la fatica che Victoria abbia fatto a uscire da quella situazione e anche in qualche modo a raccontarla. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi, a proposito di identità, torniamo a raccontare la nostra storia seriale, la storia di Antonio Cocco. Linee d'ombra. Con l'inizio della nuova stagione di Linea d'Ombra, cioè la scorsa settimana, abbiamo cominciato a raccontare anche una nuova storia seriale. È una storia che è sempre curata, scritta, raccontata dal nostro Mauro Pescio, che ha fatto un lavoro straordinario andando a recuperare una storia che era custodita all'interno dell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano. Nel 2017, 3 anni fa, esattamente 3 anni fa, vinceva il premio Pieve, cioè il premio istituito dall'archivio, un testo che si intitola La ridotta Isabel, l'autore Antonio Cocco. Tra l'altro quel premio, cioè il premio Pieve Severo Tutino, si tiene tra 2 settimane, il 18 e il 20 settembre del 2020, è la 36esima edizione, e se siete a Pieve Santo Stefano o capitate da quelle parti in provincia d'Arezzo, andate a vederlo, andate a seguirlo, potete visitare l'archivio, potete ascoltare gli incontri, potete veramente immergervi nelle storie dei diari che da 36 anni vengono raccolte in quel luogo incredibile. Tra quei vari diari appunto c'era questo, che non è esattamente un diario ma è un epistolario, è uno scambio di lettere tra un giovane uomo e il proprio padre. Il giovane uomo è un ragazzo, si chiama Antonio Cocco, ha 18 anni, viene da una famiglia molto numerosa di Venezia e a un certo punto compie un gesto inconsulto, si direbbe, perché per aver preso un brutto voto a scuola decide di andarsene, decide di scappare con un amico, vanno in Francia sono clandestini e optano per una delle possibilità che le istituzioni francesi danno loro, e cioè o tornare a casa e fare dei mesi di carcere oppure iscriversi, arruolarsi nella legione straniera. Questo è quello che fa, ma non appena lo compie questo gesto, Antonio comincia a scrivere a casa, scrive al padre, scrive anche agli altri fratelli, raccontando quello che succede, quello che vede, anche la disperazione nell'avere fatto questa scelta. Ecco, Mauro ha sentito parenti e familiari e ha composto questo racconto che parte da, vi dicevo, da queste lettere che sono raccolte in questo libro, Ridotta Isabelle nella legione straniera senza ritorno, da DMPMP, lettere del 1952 al 1954. Nel nostro racconto Antonio è già partito, è già di fatto scappato da Venezia, è arrivato in Francia e ora ci troviamo con lui sulla nave, nel suo racconto, sulla nave che dalla Francia lo porta verso l'Africa. Il viaggio in nave è stato decente, anche se costretto a rimanere sempre appartato perché non conoscevo nessuno. Verso la fine ci ha preso una burrasca forte. L'unica cosa divertente nel viaggio è che ho avuto l'occasione di vedere dei pescicani, delfini e altri pesci che non avevo mai visto. La vita qui a Sidi Bel Abbès è pressappoco come quella di Marsiglia, forse peggio perché più rigida. Ci rimarrò forse qui una decina di giorni, dopodiché me ne andrò non so dove, forse in Marocco. Ho già fatto la visita medica, abile purtroppo, e domani andrò all'interrogatorio del capitano. Spero che mi facciano abile come paracadutista, perché questa è la mia intenzione, anche se molto precaria. La media che in Indocina ci lasciano la pelle i paracadutisti è sull'80%, ma credo che tu capisca il perché di questa mia decisione. Che cosa vuol dire credo tu capisca il perché? Non lo so. Io mi ricordo questa lettera e mi ricordo che ci siamo un po' stupiti. D'altra parte capisco anche Tony, che voleva come far qualcosa dentro là, non so come dire, non essere passivo. Forse io ho interpretato così questa sua scelta, perlomeno faccio qualcosa che mi interessa, che mi piace, se dopo moro, che se ne frega, cioè non. Ma faccio qualcosa che ritengo importante, che mi piace. Un un'idea, penso tu te la sia fatta di ciò che ho passato in questo tempo, ma sarebbe stato nulla se avessi saputo che voi di casa eravate tranquilli e mi sarebbe anche ora sopportabile la vita sapendo che tu mi hai perdonato e che una volta terminati 5 anni, o meglio 2 anni, perché terminati questi in Indocina ti danno 4 mesi, potrò abbracciarvi tutti. Non oso pensare alle conseguenze della mia fuga, a come starà mamma e come tu starai, e di questo ti chiedo perdono. Giustamente tu mi dicevi che neanche tu sei fatto di ferro, e se aggiungo a questo tutto quello che ho combinato a Venezia e ciò che t'ho fatto passare per causa mia, mi convinco che supera ogni limite di bontà. Però, papà, anche se tu non mi volessi più considerare come un tuo figlio, rispondi lo stesso a questa mia lettera. Ilaria si è trovata, non le aveva lei in casa, ed un giorno è stata recapitata da un nipote una scatola, e dentro a questa scatola c'erano 165 buste. Queste lettere erano tenute, state messe da parte da Luigi Cocco, il papà, e tenute tutte assieme. Altre lettere ci sono, ma quasi ogni fratello ne ha 4 o 5. Sono lettere che erano indirizzate espressamente ai fratelli o alle sorelle. Sappiamo che altre lettere le ha mandate ai sacerdoti della parrocchia, sì, dei, sì, Carmini, agli amici, eccetera, eccetera. Quindi, ragionevolmente, abbiamo fatto un conto con Giovanni che almeno 250 lettere le ha scritte. D'altra parte, era l'unica cosa che gli rimaneva. Era l'unica cosa che aveva per rimanere attaccato alla mia. Era scritta. Sarebbe una cosa insopportabile per me non sapere come stanno le cose a casa e a chi pensare quando sarò nel pericolo. Mi sembra impossibile di dover parlare di pericolo di morte, ma sai bene quanto brutta sia la guerriglia, specialmente quando si deve fare con gente esasperata e della razza degli Indocina. Gente mezza selvaggia e ben armata. È già molto, sai, pensare d'essere pensato per uno che è nelle mie condizioni, ed è per me insopportabile non sapere a cosa pensare. Aveva ragione Idania quando diceva che per uno che se ne va dall'Italia proverebbe una forte nostalgia sia della patria come della famiglia e degli amici. 15 giorni sono passati dal giorno che sono uscito dall'Italia e mi sembrano 15 anni. Mi piaceva viaggiare ed ora mi viene male al pensiero di dover andare in Indocina, di fare 30 giorni di nave. Per ora non rispondermi, perché qui sono provvisorio. Ti spedirò ancora una mia lettera con l'indirizzo sicuro. Ti prego, babbo, di rispondermi, perché sono ansiosissimo di sapere come siete a casa. Saluti. Tony. Consequences to transcend where we are. Who are we? Who we are? Trample Mars on your souls. Changes all your apart. Seen it. Storia seriale, potete recuperare gli episodi che magari non avete sentito in podcast dal nostro sito radio24.it, alla pagina Linee d'Ombra ci sono proprio il pacchettino di podcast che potete riascoltarvi in una volta sola. Se avete voglia, altrimenti potete mandarci la vostra storia, lineedombra@radio24.it, la linea d'ombra che avete attraversato e che ha modificato la vostra vita, oppure se la state vivendo adesso e avete voglia di mandarcela con la vostra calda voce, 331 57 557 321 331 5755 721, ci mandate un WhatsApp audio in cui ci raccontate qual è la linea d'ombra che state attraversando, che state vivendo in questo momento preciso della vostra vita. Io lascio la linea al GR, ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo programma, noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.